Sport e motori con Massimo Di Scienza. Amici di Radio 24, buon pomeriggio, rigorosamente in diretta alle 16.33 minuti. Buona domenica, ben trovati a un nuovo appuntamento con Sport e Motori, in una domenica che è orfana di appuntamenti live da commentare. Il Motomondiale infatti ripartirà domenica prossima con il Gran Premio di Brno, Repubblica Ceca. Formula 1 invece ufficialmente in vacanza, anche se poi secondo me sotto sotto qualcosa si muove e ce lo facciamo spiegare tra pochissimo dai nostri esperti. Per quanto riguarda il Circus a quattro ruote, infatti, se ne riparlerà soltanto a fine mese nell'appuntamento di Spa-Francorchamps. Ovviamente interessantissimo e attesissimo perché c'è un mondiale tutto da assegnare. Prima parte del nostro appuntamento di Sport e Motori, dedicata come sempre appunto alla Formula 1. Di MotoGP parleremo più tardi. Prima parte di Sport e Motori aperta, così come la seconda peraltro, ai vostri interventi che sono graditissimi ed attesissimi via SMS al 349 238 6666. Se volete raggiungerci invece al telefono, il numero, quello classico di Radio 24, l'800 24 00 24. Dicevamo, domenica orfana di gare, quindi quale migliore occasione per fare un po' un bilancio di quello che abbiamo visto in questi primi 12 Gran Premi della stagione. Io vi lancio proprio questo amo, questo input per interagire con noi via SMS oppure al telefono. Sondaggino facile facile, però secondo me interessante anche per sapere un po' come la pensate, come avete vissuto questa prima parte della stagione. Vi chiediamo chi vi è piaciuto di più, chi vi ha convinto di più in queste prime 12 gare della stagione, se vi è piaciuta di più la velocità, soprattutto in prova ai lui, di Sebastian Vettel, se vi ha invece più soddisfatti, vi hanno maggiormente soddisfatti i guizzi di Mark Webber o la classe cristallina di Lewis Hamilton, la continuità di Jenson Button o la caparbietà di Fernando Alonso, o perché no, infine, un po' la sfortuna anche se vogliamo di Felipe Massa. Insomma, i 5 piloti in corsa per il titolo mondiale di Formula 1 più il sesto che però è stato protagonista in questa stagione di episodi, diciamo così, in chiaro scuro. Ed è la prima domanda che pongo anche ai nostri consueti compagni di viaggio, che sono Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote. Buona domenica, direttore, ben trovato. Buona domenica a tutti. E Carlo Vanzini, inviato di Sky Sport. Ciao Carlo, buona domenica. Ciao. Anche a te. Ciao, buona domenica. Partiamo dal direttore di Quattro Ruote, da Carlo Cavicchi. Direttore, abbiamo buttato un po' questo input ai nostri ascoltatori. A chi va l'Oscar degli amici di Radio 24 per queste prime gare di stagione? Vettel, secondo Webber, me... Hamilton, Button, Alonso o Massa? Secondo te? Secondo me bisognerebbe dire prima di tutto che l'Oscar va a questo campionato, perché avere a questo punto della stagione 5 piloti in lotta per il titolo è una cosa da leccarsi i baffi, cioè non capita, è una cosa rarissima, direi quasi mai vista, perché 5 in lotta mi sembra un numero straordinario, e questa è la prima cosa. Dopodiché ognuno può avere le sue, è un campionato che ha visto un filo conduttore unico, cioè i più forti sono sempre quelli della Red Bull, per continuità di prestazioni e di possibilità, poi anche di delusioni alternate, però diciamo loro sono sempre stati come potenziale dall'inizio alla fine quelli che potrebbero uccidere il campionato. Per il resto la Ferrari ha avuto un ottimo inizio, ha un buonissimo momento adesso, ha avuto delle cadute in mezzo, la McLaren è partita con fatica, si è rialzata benissimo, è sembrato dare la sterzata decisiva, adesso anche la McLaren fatica un po'. Direi che meglio di così non potrebbe essere, in assoluto. Non c'è dubbio, sei stato un po' democristiano, direttore, perché non ti sei sbilanciato sui nomi dei piloti. Allora, detto che la Red Bull è quella che ti è piaciuta di più, anche se sappiamo avere un debole per... No, non mi è piaciuta di più, mi è sembrata quella in assoluto continuo. Che potenzialmente più forte, però è anche quella che ha collezionato più sbalzi, più errori, se vogliamo. Allora, meglio i guizzi di Webber o invece la grande velocità di Vettel, che però in gara si è tradotta in meno punti di quelli che forse avrebbe meritato? Penso che alla lunga avrà la meglio Vettel, perché comunque è appoggiato in squadra e comunque ha un arco, nel suo arco più frecce da giocare, specialmente se verrà a piovere, dove lui è decisamente più forte di Webber. Quindi un punticino per Vettel nella nostra personale classifica. Carlo Vanzini, tu da che parte stai invece? Guarda, io sono stato fino a ieri insieme a Fernando Alonso a Madonna di Campiglio, dove è stato presentato il libro 20 anni di Vroom, la manifestazione che si fa d'inverno, certo, a Madonna di Campiglio, libro fotografico di Ercole Colombo, con tutti i piloti di questi 20 anni. Ho parlato con lui e io riferisco quello che dice lui, sì, che per lui la sorpresa, la grande sorpresa è Webber. E come dicevamo l'altra volta, come ricordava il direttore, l'altra volta, che Webber è uno che alterna delle prestazioni, io questo l'ho detto a Fernando Alonso dicendo se forse però è quello con quello meno solido Webber, lui ha detto no, secondo me adesso lui è quello più pericoloso, perché intanto chi è davanti ha sempre ragione e in secondo luogo adesso si trova in una situazione nella quale non si è mai trovato e dimostrerà di essere solido. Queste sono parole di Fernando Alonso, io mi fido. Su Vettel mi ha detto che è uno che deve ancora molto crescere, maturare, che sotto pressione soffre l'avversario, e l'ha dimostrato spesso nei sorpassi con Kubica in Australia, con quest'anno col compagno di squadra, anche se gli avevano dato il via libera e non si sono capiti loro due. Quindi Vettel ha meno maturità. Però detto questo, Vettel si gioca le sue carte fino in fondo. Io direi Webber perché è in testa, e Button perché non mi aspettavo riuscisse a tenere testa a Hamilton così. Che non è facile avere quel tipo di confronto in casa. Direttore, non abbiamo parlato di Alonso, o meglio, Carlo Vanzini, e poi ci racconterà che tipo di impressione ha avuto, l'ha incontrato ieri a Madonna di Campiglio. Tu invece della stagione di Alonso cosa pensi? Sei anche tu parzialmente deluso, come mi sembra di capire? Beh, imparzialmente. Alonso sta facendo tutto sommato in lotte per il mondiale, quindi sta rispondendo a quello che gli è stato poi in fondo. Qualche errore l'ha fatto in una squadra che ha fatto tanti errori, diciamo che si linea un po' con la squadra. Non è che ha dato tantissimi acuti, cioè io ero uno che avevo scommesso che il mondiale lo vinceva Alonso, e quindi devo dire che qualche volta mi ha un po' deluso, perché è stato bravo ma non ha avuto quegli acuti che io mi aspettavo da lui, acuti che ad esempio ha avuto Hamilton in certe occasioni, acuti che ha avuto Button in certe occasioni e che ha avuto Webber. Sulla faccenda Webber da parte di Alonso devo dire una cosa, per onestà intellettuale: Alonso ha lo stesso manager di Webber, quindi quando Dalsch che è ebriatore, quindi quando il giudizio viene dato mi permetto sempre di avere un po' tarato, gioca un po' sul suo cortile, ecco. Carlo Vanzini, dicevamo, tu l'hai incontrato ieri, l'hai incrociato insieme a Domenicali e Madonna di Campiglio in una veste insolitamente estiva e non invece invernale come accade ormai da 20 anni, e lo hai già ricordato. Ma se avessimo chiesto ad Alonso 6 mesi fa, firmeresti per 2 vittorie dopo 12 Gran Premi? Lui avrebbe firmato, secondo te? No, credo che uno che ha già vinto 2 mondiali, che è convinto dei propri mezzi, non firma per 2 vittorie in questa prima parte della stagione. Anzi, anche in un campionato così aperto, così equilibrato, no, combattuto, credo, con tanti piloti pronti per vincere. Io credo, guarda, noi avevamo fatto un gioco simile nel 2008 con Massa e Hamilton a Singapore, avevamo fatto un faccia a faccia, interviste, avevamo chiesto a entrambi, adesso non mi ricordo bene quanti punti, però firmeresti oggi per portare a casa da qui alla fine 30 punti? Tutti e due hanno detto no, e tutti e due hanno fatto meno di 30 punti, perché poi c'è stato il bocchettone a Singapore di Massa, insomma ci sono stati tanti episodi. Io credo che un pilota quando è convinto non firma per 2 vittorie su 12 Gran Premi, lui è convinto lui corre tutti i Gran Premi per vincerli, e lui adesso firmerebbe, invece ti posso dire questo, firmerebbe per andare sul podio da qui alla fine, perché lui ha detto adesso non è importante per come è andata la stagione quest'anno, sì è importante certo vincere le gare, però dice se riusciamo a essere sul podio, ed è anche la filosofia domenicale, su tutte le gare si vince il mondiale. Perché un mondiale così aperto, così complicato, lo si vince anche senza dominare, no? Anche senza stravincere. Direttore, facciamo un po' riferimento alla tua memoria storica, che è straordinaria. Ti ricordi un mondiale così aperto, così combattuto negli ultimi X anni? No, onestamente con 5 piloti no, ma d'altronde è anche il primo mondiale che è partito con la bellezza di 4 campioni del mondo al via, che non era successo mai, addirittura con 11 piloti che avevano vinto almeno un gran premio. Quindi sta mantenendo le attese, pur con la defezione un po' anche spiacevole, non prevista, di Michael Schumacher. E il campionato veramente bellissimo, e sono sicuro che non basterà andare sul podio sempre, secondo me, perché adesso conterà anche vincere. Oggi, da qui alla fine, chi vince 3 Gran Premi vince il Mondiale, secondo me. Al 349-238-6666, tanti gli sms, così a un primo conto che ho fatto di carattere assolutamente artigianale, mi sembra che ci sia Weber davanti a tutti gli altri, quindi la preferenza dei nostri ascoltatori va nei confronti di Mark Weber della Red Bull. Carlo Vanzini, dicevamo, periodo di ferie per quanto riguarda la Formula 1, ferie forzate come le abbiamo ribattezzate, ma sono ferie vere secondo te oppure sotto sotto si lavora anche se non si può dire? Sai, chi lo sa? I telefoni credo non siano sotto controllo, quindi credo che comunque telefonare. Anche se è vietato mandare addirittura le mail, ho letto da qualche parte. Sì, è assolutamente vietato. Da quello che so io, mi diceva Stefano Domenicale, lui staccherà completamente il telefono in questo periodo. La cosa che si diceva, anzi, una cosa carina che ha detto Stefano Domenicali ieri, ha detto è un periodo durante il quale gli ingegneri devono lavorare forse di più di quando sono effettivamente in azienda, perché è il periodo migliore, staccando, per farsi venire delle idee migliori. E quindi ha detto devono usare la testa, ovviamente riposandosi e tutto, però lui faceva l'esempio, eravamo in mezzo allo splendido scenario delle Dolomiti, cioè ti fai una passeggiata in montagna, arrivi in cima in montagna, hai la testa finalmente libera, si magari è lì che ti viene l'idea vincente. Si accende la lampadina. Carlo Cavicchi, forse la McLaren in questo momento è la squadra che più di tutte ha bisogno di una lampadina accesa, no? Sì, però io ho parlato proprio giorni fa con le ferie con l'ingegnere Banzola, bravissimo, giovane, capo delle sospensioni della McLaren in sede, è quello che progetta proprio. Lui mi ha assicurato che per 15 giorni loro fanno la sosta subito, lavorano l'ultima settimana, loro staccano veramente tutti, lui mi ha detto io sono via, siamo tutti via e veramente nessuno vuole rischiare, sono troppi occhi addosso, poi chiaro la testa lavora, se uno ha da pensare, come diceva giustamente Vanzini, le parole di Domenicali, chi vuol pensare pensa, però penso che le squadre abbiano veramente staccato. Poi chiaro, noi non possiamo sapere se in una obsoleta o nascosta galleria del vento qualcuno sta provando qualcosa, però da quello che mi hanno detto diverse persone credo che veramente abbiano staccato. Bene, allora stacchiamo anche noi per il momento lasciando la linea al traffico, chiudiamo la prima parte di sport e motori, la seconda invece sarà dedicata alla MotoGP. Io saluto Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote. Grazie a tutti. Ciao direttore, ci risentiamo domenica prossima. Invece Carlo Vanzini rimane con noi per parlare un po' di MotoGP, soltanto un attimo di pazienza, torniamo insieme, ma prima ci sono importantissimi aggiornamenti sul traffico. Sport e motori. Le 16:46 minuti 35 secondi, seconda parte di Sport e Motori, ancora insieme per un quarto d'ora più o meno, vi accompagniamo fino alle ultime notizie del giornale radio delle 17, come ogni domenica qui per parlare di Formula 1 e di MotoGP. Abbiamo quasi esaurito il capitolo relativo alla Formula 1 perché avevamo già in linea e dunque è nostro obbligo, diciamo così, aprire le linee. Dicevamo, abbiamo già in linea Emanuele della provincia di Alessandria che voleva parlare ancora di Formula 1. Ciao Emanuele, buona domenica. Buona domenica a tutti voi. Volevo Ciao, Emanuele. Chiedere una cosa a Carlo Vanzini. Ce l'abbiamo in linea per te, dici tutto. Dunque, ho un po' nostalgia dei vecchi circuiti. Ho visto ultimamente gare come circuiti come Silverstone e Hockenheim che sono stati praticamente snaturati da quelli che erano prima. Volevo chiedere se in futuro ci sono possibilità che circuiti storici come il Paul Ricard, Ville Castellet e Brands-Hatch, ovviamente secondo le norme di sicurezza, messi in regola per tutte le norme di sicurezza, possono ritornare a entrare nel circuito di Formula 1. So che a Brands Hatch ci saranno da fare parecchi lavori, però il Paul Ricard secondo me potrebbe andare bene per la Formula 1. Ringrazio e buona giornata. Grazie a te, buona domenica. Emanuele dalla provincia di Alessandria, una domanda un po' vintage per Carlo Vanzini, ci ha fatto rivenire in mente tanti ricordi della ripescare nel passato di questi fantastici circuiti, ma secondo te al futuro possono essere declinati questi nomi oppure no, Carlo? Ma Ma il futuro bisogna vedere cosa succederà, perché adesso è sempre tutto in mano a Bernie Ecclestone, bisognerà vedere dal 2012 quando dovrà essere firmato il nuovo patto della Concordia, se cambieranno delle cose, cambierà chi gestirà la Formula 1, c'è sempre l'ipotesi di un campionato alternativo. Sicuramente Porrecarda è una pista che può ospitare la Formula 1. Brasaccia al momento, l'anno scorso questa gara del DTM, insomma, mi sembra un po' improponibile per la Formula 1, bisognerebbe fare dei lavori incredibili, ci ha provato Donington e, come sappiamo tutti, ha fallito nel suo tentativo. Io sono dell'idea che tutto può succedere, al momento la linea è quella di andare verso paesi che portano soldi, la Corea che entrerà, Singapore che è già entrata, Abu Dhabi che è già entrata, insomma si va dove effettivamente ci sono i soldi, c'è il liquido, diciamo. E per il resto sono dell'idea che ci sono alcune piste storiche che dovrebbero forse segnare il passo, essere un po' modificate. Una di queste è Budapest, l'ultimo Gran Premio dove non abbiamo visto un sorpasso, oppure Barcellona, oppure delle piste nuove, Valencia o Singapore, dove non si passa neanche, cioè non passi, quindi non c'è possibilità. L'importante è che non ci metta mano Tilke, no? L'architetto, sì, diciamo che famigerato. Tilke. No, ma guarda, Malesia, per dire, ci sono delle piste dove si sorpassa e dove lo spettacolo c'è. A Abu Dhabi io sono rimasto molto deluso, perché avendo a disposizione un deserto potevi veramente creare quello che volevi. Non ha fatto una curva che sia una degna di nota. Va bene, staremo a vedere, Carlo, per quanto riguarda la Formula 1. Grazie anche ai nostri amici che hanno continuato a intervenire su questi argomenti. Appuntamento a domenica prossima, avremo ancora spazio per parlarne insieme. Passiamo alla MotoGP, Carlo, perché dicevamo in apertura una settimana di attesa, di avvicinamento al Gran Premio di Brno, che si corre domenica 15, che potrebbe essere un po' il Gran Premio della svolta, non tanto dal punto di vista degli equilibri del Mondiale, che sembra praticamente di fatto assegnato ormai a Jorge Lorenzo, quanto perché dal giorno dopo in poi dovrebbe saltare il tappo della famosa bottiglia dei cambiamenti, con gli annunci in sequenza di Valentino Rossi alla Ducati e poi via via tutti gli altri. Spies che dovrebbe andare in Yamaha al posto del dottore, e staremo a vedere quali e quanti altri cambiamenti. Invece ti volevo coinvolgere, Carlo, in un piccolo giochino. Volevo chiederti un pochino come valutavi la stagione degli italiani in MotoGP, perché noi parliamo sempre di Valentino Rossi, del suo mondiale, il suo recupero straordinario, la sua grande capacità di tornare competitivo nonostante abbia parecchi ferri nella sua gamba, però parliamo magari poco degli altri. Detto che la stagione di Loris Capirossi, insomma, non è stata forse all'altezza del suo nome, e forse avrebbe potuto anche chiudere un po' prima la sua carriera, questo a mio modestissimo parere. Però ad esempio non parliamo spessissimo di Dovizioso, che invece sta facendo uno straordinario campionato, è terzo in classifica, è andato sul podio 4 volte, è un pilota ormai che fa parte della top 5 mondiale assoluta della MotoGP. Ti piace come pilota Dovizioso, e che futuro prevedi per lui, Carlo? Ma a me piace molto Dovizioso, è uno di quei piloti su quale bisogna assolutamente puntare, ha sicuramente un grande futuro. Purtroppo si trova, purtroppo per lui, o per fortuna, perché comunque poi Valentino Rossi fa in modo che si parli tanto di MotoGP, quindi porta l'interesse degli sponsor anche agli altri. Purtroppo però il rovescio della medaglia è che si parla più di Rossi, si parla poco di lui. Ha davanti tanti campioni, Stoner, Pedrosa, Rossi che si scambiano le moto, Stoner che andano. Insomma, non è un momento facile per riuscire a esplodere, avere un'attenzione massima nei propri confronti, questo per quanto riguarda Dovizioso, perché ci sono questi 4-5 piloti che stanno comunque monopolizzando l'attenzione. Di sicuro anche lui merita di essere assolutamente al centro dell'attenzione, sta facendo una bella esperienza, secondo me dall'anno prossimo potrà essere ancor più competitivo, perché quando si inizia a capire che puoi essere lì a giocartela con questi campioni che ho citato, allora inizi nella tua testa a ragionare che okay, è il momento di vincerle le gare. E io credo che sarà un pilota da seguire, che ci darà molte soddisfazioni. apro una parentesi su Valentino Rossi. Vai. Ho provato in questi giorni, sai, Campiglio organizza il main sponsor della Ferrari, Philip Morris, e quindi main sponsor anche della Ducati. Io, sai, con gli organizzatori ho buttato lì la frase dicendo: allora a gennaio vedremo Valentino Rossi qui. Devo dire che sono stati bravissimi nel non cadere nel tranello anche dopo un paio di grappe. Dicendo: sì, tanto Valentino Rossi è qua alla casa. Ah, ecco, soltanto per quel motivo. Senti, invece, a proposito di italiani, continuando un po' in questa nostra così carrellata, di Melandri e Simoncelli, che insomma non hanno fatto una stagione straordinaria. Peraltro nel corso della settimana il nostro Dario Ricci ha anche sentito il loro team manager Fausto Gresini. Insomma, non una grandissima stagione, e mentre per Melandri probabilmente la carriera è un po' nella fase calante, per Simoncelli forse ci si attendeva, e su Simoncelli ci si attendeva qualcosina di più. Io credo Simoncelli stia pagando lo scotto dell'essere stato troppo presto paragonato a Valentino Rossi, o comunque si è guardato più al personaggio Simoncelli che non al pilota Simoncelli, questi capelli lunghi, insomma, ha fatto molto parlare di sé e noi stessi l'abbiamo spesso paragonato a Valentino Rossi. Deve solo, secondo me, ritrovare la sua dimensione, deve solo pensare a essere se stesso e tornare a guidare per se stesso. E quindi io credo lui ha comunque le possibilità di emergere, di continuare nella sua crescita, comunque è giovanissimo, quindi non possiamo assolutamente dare giudizi stroncanti adesso. Per quanto riguarda Melandri, Melandri è un pilota che forse è stato costruito fin troppo da giovane, è stato costruito proprio per vincere, è stato costruito per essere un campione, e lui è arrivato con la mentalità di dover per forza vincere. Quando si è trovato nella difficoltà è un po' crollato. Adesso c'è questa opzione, credo, per la Superbike, per la prossima stagione, potrebbe anche essere un modo per staccare, per ritrovarsi, per trovare qualcosa di diverso, o magari ritrovare se stesso anche lui. Vedremo. Sentiamo allora Fausto Gresini, proprio il team manager di Melandri e Simoncelli, intervistato da Dario Ricci. Si parte da Valentino Rossi. Beh, francamente no, mi ha un po' sorpreso, credevo francamente che si pigliasse più tempo, invece ha avuto proprio la voglia di ritornare in pista di lottare, quindi ha dimostrato per l'ennesima volta di avere un grande carattere, una grande voglia di combattere, è un combattente, lo è sempre stato e lo ha dimostrato anche questa volta, quindi certamente credo che lui voglia cercare di trovare la sua forma migliore nel più breve tempo possibile. Sa benissimo che la sua arma migliore è correre, anche con le difficoltà. Chiaramente è stato molto bravo, ma non è ancora abbastanza in forma per essere competitivo e vincere, però ovviamente è importante quello che ha fatto, veramente molto molto importante. Beh, tutti contenti di rivedere Valentino Rossi in pista, forse gli unici scontenti sono quelli della Ducati, perché sappiamo tutti che Valentino ormai è a un passo dall'annuncio del matrimonio con la Rossa. Vederlo correre sulla Yamaha col rischio di rifarsi male a Borgo Panigale deve aver creato qualche problemino, eh? Beh, io credo che Valentino corre ed è giusto che lo faccia, quest'anno un contratto con Yamaha, lo deve rispettare fino in fondo, e la volontà di Valentino è finire bene Yamaha e finire comunque con l'allenamento giusto, con l'effettamento giusto, per poi andare in Ducati e cercare di dare il meglio di sé e anche quelle informazioni che servono a Ducati per migliorarsi eventualmente se necessario ancora. Quindi io credo che tutto quello che sta facendo Valentino lo sta facendo nel migliore dei modi, ovviamente calcolato, ovviamente con la volontà e determinazione del campione che vuole tornare, quindi credo che a Borgo Panigale per questo non siano preoccupati, anzi devono essere felici, perché troveranno un pilota stimolato e con la volontà di mettersi in discussione, che a 31 anni comunque non è sempre così scontato. Il punto di vista di Fausto Gresini ci ha accompagnato alla chiusura di questo appuntamento con Sport e Motori. Io ringrazio Carlo Vanzini, inviato di Sky Sport. Ciao Carlo, ci risentiamo domenica prossima. Ciao Max, grazie a tutti. Ciao, grazie anche a Luca Rinaldi in redazione, l'ottimo Paolo Corleoni in regia. Vi lascio a Mine Vaganti con Federico Taddia. Adesso appuntamento con l'informazione delle 17. Da Massimo Di Scienza l'augurio di un'ottima settimana. Ciao, a domenica prossima. Sport e Motori.